piazza subito dopo il blitz vergognoso delle forze del disordine l'altra notte, dopo il tentativo di sbaraccare il presidio che è stato sbaraccato oggi qua da questa enorme manifestazione. Ci siamo dati appuntamento, siamo venuti in un paio di centinaia, non di più, ma sono tanti quelli che a Roma si preparano a partecipare alla manifestazione del 17 a Torino. Perché abbiamo capito il valore che questa lotta ha per tutti noi, il valore globale. Parlano di globalizzazione, ma qua gli viene data una lezione globale, che non si fa niente chiamando l'interesse generale contro le persone e contro i territori, che non si decide al di sopra della gente. E nella città dei giochi olimpici invernali noi verremo con tutti voi a dare il segnale che è finito il momento dei giochi, che se ne devono andare a casa, che bisogna che ridiano la parola alle popolazioni e che possiamo decidere su noi stessi, qui in Val di Susa, qui a Venaus e dappertutto. Molti di noi hanno subito in questi anni la criminalizzazione che avete sentito in questi giorni sui giovani valsusini e sui giovani torinesi che valorosamente hanno sostenuto la nostra lotta. Anche a noi ci hanno chiamato dei pissi più volte e invece siamo venuti qui come attivisti sociali perché abbiamo dovuto violare qualche volta le leggi per affermare la legalità dei molti, la legalità violata dai pochi al potere ogni giorno con questi soprusi, per avere una casa, per avere una qualità della vita, per avere un reddito, per avere un lavoro dignitoso e per poter studiare dignitosamente. Tanti studenti sono venuti qua, come da Torino, anche da Roma quest'oggi, saremo molti di più di 17. Adesso una comunicazione a tutte le compagne e compagni di Roma, di tutte le aree che sono venuti stanotte e stamattina qui, noi ci vediamo a Susa. Chi potrà e vorrà rimanere a sostenere il presidio in questi giorni, bene, ma in ogni caso l'appuntamento per tutti è a Roma per costruire la solidarietà lì, per colpire anche gli interessi che stanno campando sopra queste popolazioni, a partire dalle ditte costruttrici, dalle ditte appaltatrici dell'alta velocità. E poi mobilitarci per raggiungere Roma. Quindi appuntamento adesso, il prima possibile, poi naturalmente aspetteremo tutti alla stazione di Susa per tornare a Torino, ritornarsene con i treni e poi per il 17 di nuovo a Torino con i valsusini.